Natale. Per quest'anno non ti chiedo nessun regalo per me. Il regalo voglio farlo al mondo. Vorrei che tutto fosse illuminato dal sorriso e che il cuore batte il ritmo dell'amore. Questa realtà non ti sogno nulla, speranza e felicità il Natale ci darà, soprattutto serenità negli occhi si vedrà. Il Natale per tutti lo sai, l'amore dentro noi. La neve scende giù, brucia doppi colorati. Aspettiamo mezzanotte per far nascere Gesù, che ci porta solo il bene, il male scappa via fuori da noi. Mette in modo tra noi questa pace, mamma mia.